Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Cibo, vino e olio sono le categorie che più di tutte parlano di italianità nel mondo. Anche per questo i dati delle vendite nell'agroalimentare sono particolarmente positivi. Solo lo scorso anno l'export italiano nel settore ha raggiunto il valore di 41,8 miliardi di euro, con una crescita dell'1,8% rispetto al 2017. I mercati di riferimento non sono solo europei, ma guardano anche agli Stati Uniti, all'Estremo Oriente, fino all'Australia. Ma a tutte queste destinazioni corrispondono diverse modalità e tipologie di trasporto. Come giungono i nostri cibi nel mondo? E quali sono le principali difficoltà riscontrate dagli operatori? Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Oggi ci occuperemo, come avete ascoltato anche dalla nostra scheda iniziale, di un tipo di trasporti davvero particolare perché riguarda un po' tutti noi consumatori, il trasporto dei prodotti agricoli, quindi non solo l'ortofrutta, il fresco, l'olio o tutto ciò che in qualche modo riguarda le nostre campagne. Cercheremo di fare un po' il punto su questi trasporti in compagnia della nostra ospite, che è la dottoressa Anna Rufolo, responsabile del settore olivicolo e ortofrutticolo di CIA Agricoltori. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a voi. Allora, dicevamo, un trasporto molto delicato, non soltanto per quanto riguarda il fresco, che molto spesso viene trasportato anche a temperatura controllata e quindi deve sottostare a delle rigidissime regole denominate ATP, ma anche il trasporto più banale dei prodotti agricoli diventa sensibile e delicato nel momento in cui questi prodotti poi devono arrivare sulle tavole degli italiani. Allora, cominciamo innanzitutto con l'inquadrare il problema. Cosa si trasporta oggi in Italia, in particolare dalle campagne? Quando parliamo di trasporto di prodotti dell'agricoltura o di prodotti alimentari, parliamo di un quantitativo particolarmente rilevante. Si tratta di prodotti che si spostano la maggior parte oltre i 50 chilometri e che incidono pesantemente sul trasporto su gomma. Lei faceva riferimento ai prodotti ortofrutticoli, che chiaramente sono dei prodotti considerati deperibili, quindi hanno una particolare necessità di attenzione sia rispetto alle temperature, quindi all'ambiente di trasporto e dal punto di vista igienico-sanitario. Sono generalmente non inclusi in regole strette prodotti di assoluto valore per l'agroalimentare italiano, ossia l'olio e il vino, prodotti peraltro di cui noi siamo leader nel panorama globale. Immagini che per quanto riguarda l'olio noi siamo il secondo produttore mondiale, ma il primo esportatore e il primo paese consumatore, e abbiamo assolutamente valori di leader anche per quanto riguarda il vino, siamo il primo paese produttore e il secondo esportatore. Quindi questi prodotti non sono attualmente normati per quanto riguarda le condizioni di trasporto, ma sicuramente hanno delle richieste importanti, perché se è vero che parliamo di prodotti confezionati, quindi dove non c'è un rischio tangibile di natura microbiologica, parliamo di prodotti di assoluto valore e che sono il risultato di un lavoro importante, certo, degli agricoltori. Certo. E che quindi va in qualche modo tutelato e preservato. Quindi mi sembra di capire un ruolo importante anche nelle esportazioni di questi prodotti. Ma come vengono trasportati questi prodotti agroalimentari? Parliamo di chiaramente grandi quantitativi che vanno verso l'export, parte in conto diciamo proprio e parte utilizzando i servizi di logistica, in alcuni casi fanno dei cammini più corti, in altri invece arrivano delle piattaforme logistiche per poi essere caricati su container o su altri camion fino alla destinazione finale, affrontando quindi diverse soste prima di arrivare alla tavola dei consumatori. Parliamo di prodotti che hanno una profonda sensibilità sia a condizioni, allo stress di viaggio, quindi a condizioni di sbalzi termici, ad elevate temperature, ma anche ad esposizioni alle vibrazioni oltre che alla luce. In particolar modo sappiamo che per l'olio è fondamentale una conservazione lontana da fonti di calore, da irraggiamento diretto o da alte temperature. Quindi quando si trasporta questi prodotti si trasporta un patrimonio dell'agroalimentare che è il risultato appunto di un lavoro, come le dicevo, importante sulla qualità che fanno i nostri produttori italiani. Ecco, a proposito di valore, chiedo scusa, lei parla di olio, ma in realtà noi siamo diventati, anche se non sbaglio, quest'anno il primo paese produttore di vino, e quindi anche in questo caso probabilmente c'è bisogno di una grande professionalità per la movimentazione di questo prodotto così delicato. C'è bisogno di professionalità, ma soprattutto di sinergie, di una sorta di patto di collaborazione tra produttori e trasportatori proprio a difesa delle eccellenze italiane. E quindi questa collaborazione si può concretizzare con dei progetti di filiera, per esempio, quindi, o con delle buone pratiche, per cui esulando dai limiti di legge, con una collaborazione più stretta e anche una sensibilizzazione degli attori della filiera che sono oltre i produttori, i frantoi, le cantine, ma che hanno un ruolo fondamentale nel mantenimento qualitativo di queste nostre eccellenze. Ecco, possiamo dare un po' di numeri? In quali quantità vengono movimentate questi prodotti in Italia e forse anche all'estero? Parliamo di, per quanto riguarda i prodotti della c'è una voce chiaramente aggregata, parliamo di prodotti dell'agricoltura, in generale della caccia, la silvicoltura, per oltre 56 milioni di tonnellate, mentre invece per prodotti alimentari, bevande o tabacchi andiamo oltre i 110 milioni di tonnellate, quindi parliamo di quantitativi notevoli, si stima che siano i prodotti che si muovono di più, e se immagina che su questi due prodotti abbiamo un ruolo di esportatori fondamentale, pensi a quanti chilometri percorrono le nostre merci, anche e soprattutto su gomma. Ecco, è il famoso chilometro zero, quindi il produttore agricolo che vende praticamente i suoi prodotti negli immediati dintorni del suo appezzamento, quanto è forte come settore in Italia? Sicuramente è un settore, sia il settore vitivinicolo che il settore olivicolo, sono settori che si esplicano attraverso diverse forme organizzative, però anche le piccole aziende hanno bisogno di trasportare anche per tratti non importanti i propri prodotti, e quindi una fase delicatissima è proprio l'ultimissimo miglio, spesso anche con carichi molto piccoli direttamente in punti vendita, per cui parliamo sia di grandi distanze, quindi di problematiche sulle grandi distanze, ma spesso anche di breve raggio, piccoli spostamenti. Quindi in realtà il chilometro zero, come dire, volendo essere estremamente pignoli, non esiste sostanzialmente. Ma esiste sicuramente una parte di azienda agricola che vende all'interno della propria realtà aziendale, ma abbiamo anche tantissime aziende che chiaramente si muovono su più in loco, magari lavorando, non so, con gli hotel, con la ristorazione, con i negozi, e che hanno altrettanto bisogno di un trasporto che sia sicuro e che preservi la qualità del prodotto, perché come le diceva prima non c'è l'obbligo di refrigerazione, però sicuramente avere un sistema di trasporto che sia performante dal punto di vista di sostegno alle imprese è sicuramente un valore aggiunto anche per le aziende agricole. Ecco, dottoressa Rufolo, siamo in chiusura, abbiamo ancora un minuto. Lei prima parlava di filiere, quindi dell'importanza che tutti questi attori della filiera, dal produttore fino al distributore, quindi fino al trasportatore, dialoghino fra di loro. Ma esiste un sistema affinché questo dialogo sia sempre più produttivo? Noi vorremmo che ci fosse una vera e propria incorporazione della logistica nei progetti di filiera, come le dicevo, per superare le criticità del trasporto e dello stoccaggio, e la parola chiave è assolutamente il coinvolgimento. Quindi è importante stimolare tavoli di lavoro con la parte del trasporto, con la parte della distribuzione, proprio per stringere un patto di alleanza, oltre chiaramente alla formazione reciproca sia degli autotrasportatori ma anche per esempio degli operatori di magazzino. Quindi noi crediamo molto in questo dialogo costruttivo e in questo patto di alleanza per la qualità. Certo. Bene, termina qui questo spazio dedicato al mondo dei trasporti e della logistica, oggi dedicato al trasporto dei prodotti agroalimentari. Ringraziamo la nostra ospite Anna Rufolo, responsabile del settore olivicolo e ortofrutticolo di CIA Agricoltori Italiani. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.